prima di salutarci consultiamo il libro dei Guinness dei primati. Andiamo alle pagine della salute, ma soprattutto prima voglio salutare il signor Guinness, Marco Frigatti, che è tornato a trovarci. Marco, benvenuto. Buongiorno a tutti da Londra. Allora Marco, c'è un record curioso che riguarda la misurazione della pressione. Ne parliamo tante volte di ipertensione, di pressione, e finisce anche nel Guinness dei primati. Esatto, il 17 maggio del 2008 l'Associazione Giapponese per la Lotta contro l'Ipertensione ha stabilito un nuovo record, misurando la pressione a ben 4.981 persone in una sola giornata. Allora, e per tutti quelli che come me e anche come Marco Frigatti hanno mancato all'appuntamento giapponese, quindi non hanno fatto parte dei 4.891 pazienti, l'invito resta naturalmente quello di misurarsi la pressione. Potete farvela misurare dal medico o misurarla a casa vostra. A proposito, i valori considerati nella norma li conosciamo tutti, ma il nostro robot della salute, sapete un po' come è fatto, ci tiene a ricordarceli. Allora lo ascoltiamo. 80-120. Allora, grazie Marco per essere stato con noi. Anche tu hai memorizzato i valori normali della pressione. Controllala anche tu la pressione, oltre che tenere sotto controllo il Guinness dei primati. Certo, grazie dei consigli. Allora Marco, grazie, ti saluto, grazie per essere stato con noi. Ciao a tutti e grazie ancora.